ad alta voce. Corrado Guzzanti legge Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov. 14esima puntata. La festa promessa a Sharikov dal dottor Bormental non ebbe tuttavia luogo la mattina successiva, in quanto Poligraf Poligrafovich scomparve di casa. Bormental cadde preda di una furiosa disperazione. Si definì un asino per non aver nascosto la chiave della porta d'ingresso. Gridò che era imperdonabile e concluse con l'augurio che Sharikov andasse a finire sotto a un autobus. Filippa Filippovich se ne stava nel suo studio, le mani nei capelli, e diceva: «Mi immagino che cosa starà combinando per la strada. Me lo immagino. Da Siviglia fino a Granada. Dio mio!» «Potrebbe anche essere al comitato», si infuriava Bormental, e se ne corse via chissà dove. Al comitato venne a parole con il presidente Schwonder, al punto che questi si sedette per stilare una denuncia al tribunale del popolo del quartiere, gridando nel farlo che lui non era il guardiano del pupillo del professor Probazhensky, tanto più che questo pupillo, Poligraf, non più tardi del giorno prima si era rivelato un furfante, facendosi dare 7 rubli dal comitato per comprare dei manuali alla cooperativa. Fyodor, che in quella faccenda aveva guadagnato 3 rubli, ispezionò la casa da cima a fondo. Da nessuna parte si trovò traccia di Sharikov. Si chiarì solamente una cosa: che Poligraf se n'era andato all'alba con berretto, sciarpa e cappotto dopo aver preso con sé una bottiglia di vodka al sorbo che era nella credenza, i guanti del dottor Bormental e tutti i propri documenti. Daria Petrovna e Zina, senza tentare minimamente di nasconderle, espressero la loro vivissima gioia e la speranza che Sharikov non facesse mai più ritorno. La vigilia Sharikov aveva preso in prestito 3 rubli e 50 copeche da Daria Petrovna. «Ben le sta!» ringhiava Filip Filippovich scuotendo i pugni. Il telefono squillò tutto il giorno e continuò a squillare anche il giorno successivo. I medici ricevettero un'insolita quantità di pazienti, ma il terzo giorno, nello studio, venne posta la questione se non fosse necessario far sapere alla polizia che avrebbe dovuto scovare Sharikov nel gorgo moscovita. E non appena fu pronunciata la parola polizia, il silenzio riverente di vicolo Abukov fu lacerato dal latrato di un autocarro e le finestre della casa tremarono. Quindi risuonò un baldanzoso scampanellio e Poligraf Poligrafovich entrò con insolita dignità. Si tolse il cappello in completo silenzio, appese il cappotto al gancio e apparve sotto nuove spoglie. Indossava un giubbotto di pelle di una taglia diversa dalla sua, logori pantaloni anch'essi di pelle e alti stivali inglesi con le stringhe fino alle ginocchia. Un incredibile odore di gatto subito si diffuse per tutta l'anticamera. Probazhensky e Bormental, come ubbidendo a un ordine, incrociarono entrambi le braccia sul petto, si piazzarono accanto all'architrave della porta e attesero le prime spiegazioni da parte di Poligraf Poligrafovich. Questi si lisciò i capelli ruvidi, tossì e si guardò attorno in modo tale che fu evidente come cercasse di nascondere il proprio imbarazzo assumendo un'aria disinvolta. «Io, Filip Filippovich», cominciò finalmente a dire, «ho trovato lavoro». Entrambi i medici emisero un suono secco, indistinto con la gola e trasalirono. Probazhensky riprese per primo il controllo, protese una mano e disse: «Mi dia il documento!» C'era stampato sopra: «Illatore della presente, compagno Poligraf Poligrafovich, è effettivamente il responsabile del sottoreparto incaricato dell'eliminazione di animali randagi, gatti e simili della città di Mosca nella sezione delle aziende comunali moscovite». «Dunque», articolò a fatica Filip Filippovich, «chi glielo ha trovato? Ah, d'altronde posso ben immaginare». «Beh, sì, Schwonder», rispose Sharikov. «Mi permetta di chiederle come mai puzza in modo così ributtante». Sharikov si annusò il giubbotto preoccupato. Beh, certo, puzza, è ovvio. Dipende dal lavoro. Ieri di gatti ne abbiamo strangolati. Filippovich sussultò e guardò Bormental. Gli occhi di quest'ultimo facevano venire in mente due nere bocche di fucile puntate dritte su Sharikov. Senza alcun preambolo si mosse verso Sharikov e con gesto lieve e sicuro lo afferrò per la gola. «Aiuto!» strillò Sharikov impallidendo. «Dottore!» «Non ho intenzione di fargli alcun male, Filip Filippovich. Non si preoccupi», ribatté Bormental con voce ferrea. E si mise a gridare «Zina e Daria Petrovna!» Entrambe fecero la loro comparsa in anticamera. «Su, ripeta!» disse Bormental e strinse appena appena la gola di Sharikov vicino alla pelliccia. «Dovete scusarmi?» «Sì, d'accordo, ripeterò!» rispose con voce roca Sharikov sbalordito. All'improvviso inspirò dell'aria, si contorse e tentò di gridare «Aiuto!» ma il grido non uscì e la testa sprofondò nella pelliccia. «Dottore, la supplico!» Sharikov annuì, fece capire che si sottometteva e che avrebbe ripetuto. «Dovete scusarmi, stimatissime Daria Petrovna e Zinaida!» «Prokofievna!» sussurrò Zina spaventata. «Prokofievna!» disse l'arrochito Sharikov col fiato mozzo. «Per essermi permesso!» «Permesso?» «Un comportamento indecente, di notte, in stato di ubriachezza.» «Ubriachezza? Non lo farò mai più, non fa...» lo lasci, Ivan Arnoldovic!» implorarono contemporaneamente le due donne. «Lo sta strozzando!» «L'autocarro la sta aspettando.» «No!» rispose rispettosamente Poligraf. «Mi ha solo portato qui.» «Adesso tenga presente quanto segue. Lei ha fatto nuovamente ritorno nell'appartamento di Filippa Filippovic?» «E dove altro potrei andare?» rispose timidamente Sharikov con gli occhi persi. «Perfetto. Essere più silenziosi dell'acqua, più bassi dell'erba. In caso contrario, per ogni comportamento scandaloso, lei avrà a che fare con me. Chiaro?» «Chiaro!» rispose Sharikov. Per tutta la durata delle violenze nei confronti di Sharikov, Filip Filippovich aveva mantenuto il silenzio. Si era penosamente rattrappito accanto all'architrave della porta, rosicchiandosi un'unghia con gli occhi fissi sul parquet. Poi all'improvviso li alzò su Sharikov e domandò con voce sorda e automatica: «Che cosa ve ne fate di quei gatti ammazzati?» «Ne faranno paltò», rispose Sharikov. «Ne faranno pellicette da vendere a rate ai lavoratori.» Poi nell'appartamento calò il silenzio, che si protrasse per due interi giorni. Al mattino Poligraf Poligrafovich se ne andava su un autocarro rombante, si rifaceva vivo a sera, cenava quieto quieto con Filip Filippovich e Bormental. Nonostante Bormental e Sharikov dormissero nella stessa stanza, la sala d'aspetto, non si rivolgevano la parola. Di modo che il primo a stufarsi fu Bormental. Dopo un paio di giorni nell'appartamento apparve una signorina magra, con occhi bistrati e delle calzette color crema, che si confuse alquanto alla vista di quel magnifico appartamento. Con il suo cappottino liso seguiva Sharikov e in anticamera si imbatté nel professore. Questi, sbalordito, si fermò, socchiuse gli occhi e chiese: «Potrei sapere?» «Mi faccio registrare in matrimonio con lei. È la nostra dattilografa. Vivrà con me. Bisognerà spostare Bormental dalla sala d'aspetto. Lui ha un suo appartamento», spiegò Sharikov in modo estremamente ostile e cupo. Filip Filippovich sbatté gli occhi, rifletté, squadrando la signorina tutta rossa in viso, e con grande cortesia le rivolse un invito. «Le chiedo di favorire un attimo nel mio studio.» «E io verrò con lei», proferì Sharikov rapido e sospettoso. E a quel punto istantaneamente spuntò fuori, come da sottoterra, un deciso Bormental. «Mi scusi», disse, «il professore deve parlare con la signora, mentre noi due ce ne resteremo qui». «Non voglio», ribatté con odio Sharikov, tentando di lanciarsi all'inseguimento di Filippo Filippovich e della signorina che ardeva di terrore. «No, scusi tanto», Bormental afferrò Sharikov per un polso e lo portò in ambulatorio. Per 5 minuti dallo studio non giunse alcun suono, ma poi all'improvviso s'udirono i sordi singhiozzi della signorina. Filippo Filippovich se ne stava in piedi accanto alla scrivania e la signorina soffocava il pianto in un sudicio fazzolettino di pizzo. «E lui, canaglia, aveva detto di essere ferito in combattimento», singhiozzava la signorina. «Mente», rispondeva Filippo Filippovich inflessibile. Poi scosse la testa e continuò. «Mi dispiace sinceramente per lei, ma non bisogna mai col primo venuto, solo per questione di lavoro. Bambina mia, è un'assurdità, ecco». Aprì un cassetto della scrivania e ne tirò fuori 3 biglietti da 10 rubli. «Mi avvelenerò», piangeva la signorina. «Alla mensa ogni giorno c'è carne salata e mi minaccia, dice di essere un comandante rosso. Con me, dice, vivrà in un appartamento di lusso, ananas tutti i giorni. Sono a posto di testa, dice, l'unica cosa che odio sono i gatti. Si era preso il mio anello per ricordo». «Su, su, su, su, è a posto di testa, questa è bella. Da Siviglia fino a Granada», borbottava Filippo Filippovich. «Deve sopportare, lei è ancora così giovane». «Possibile che lei l'abbia trovato in quello stesso androne?» «Pigli i soldi quando glieli danno in prestito», ruggiva Filippo Filippovich. Quindi la porta si spalancò solennemente e Bormental, su invito di Filippo Filippovich, condusse dentro Sharikov. Questi aveva lo sguardo sfuggente e il pelo che aveva sulla testa gli si era rizzato come una spazzola. «Mascalzone!» proferì la signorina facendo lampeggiare gli occhi impiastrati e lacrimosi e il naso incipriato a chiazze. «Perché ha una cicatrice sulla fronte? Provi a spiegarlo a questa signora», domandò insinuante Filippo Filippovich. Sharikov tentò il tutto per tutto. «Sono stato ferito al fronte combattendo contro Kolchak», abbaiò. La signorina si alzò e se ne uscì singhiozzando. «La smetta!» le gridò dietro Filippo Filippovich. «Aspetti, favorisca l'anellino», disse poi rivolgendosi a Sharikov. Questi si sfilò ubbidiente dal dito un anello leggero, leggero con smeraldo. «Beh, d'accordo», disse all'improvviso con odio. «Te la farò vedere io. Domani ti licenzio per riduzione dell'organico». «Non abbia paura di lui», le gridò dietro Bormental. «Non gli permetterò di fare alcunché». Si voltò e sogguardò Sharikov in modo tale che questi rinculò e andò a sbattere con la nuca contro l'armadio. «Come si chiama?» gli chiese Bormental. «Il cognome!» ruggì all'improvviso e divenne selvaggio e terribile. «Vasniakova!» rispose Sharikov cercando con gli occhi un modo per svignarsela. «Ogni giorno!» proferì Bormental afferrando i risvolti della giubba di Sharikov. «Io personalmente mi informerò presso l'eliminazione animali randagi se per caso non hanno licenziato la cittadina Vasniakova. E se per caso lei, se vengo a sapere che l'ha licenziata, io le, con le mie stesse mani, qui sul posto, le sparerò. Stia attento, Sharikov. Sto parlando in russo». Sharikov, senza staccare lo sguardo, fissava il naso di Bormental. «Una rivoltella la si trova anche noi», prese a borbottare Poligraf, ma in modo molto fiacco, e all'improvviso con un guizzo schizzò verso la porta. «Stia attento!» lo inseguì il grido di Bormental. La notte e metà del giorno successivo nell'appartamento gravò una nube come prima di un temporale, ma tutti tacevano. Ed ecco che il giorno successivo, quando Poligraf Poligrafovic, che al mattino era stato colto da un cattivo presentimento, cupo se ne andò via sull'autocarro diretto al posto di lavoro, il professor Probaženski, in un'ora davvero insolita, accolse uno dei suoi primi pazienti, un uomo grande e grosso, in uniforme militare. Questi aveva chiesto insistentemente un appuntamento e l'aveva ottenuto. Entrando nello studio, fece schioccare cortesemente i tacchi. «I dolori sono ricominciati, mio caro?» gli domandò l'emaciato Filip Filipovic. «Si sieda, prego». «Merci». «No, professore», rispose l'ospite appoggiando l'elmo su un angolo della scrivania. «Le sono molto riconoscente. Sono venuto a trovarla per un altro motivo, Filip Filipovic. Nutrendo un grande rispetto, sono venuto ad avvertire. Una vera sciocchezza. Si tratta semplicemente di un furfante». Il paziente frugò in una cartelletta e ne estrasse un foglio di carta. «È stata una fortuna che me l'abbiano riferito immediatamente». Filip Filipovic si pose il pince-nez sopra gli occhi e si immerse nella lettura. A lungo borbottò tra sé, mutando espressione di secondo in secondo. «E anche minacciando di uccidere il presidente del comitato, il compagno Schwonder, dal che si evince sia in possesso di un'arma da fuoco e pronuncia discorsi controrivoluzionari, ha ordinato persino alla sua social domestica di bruciare nella stufa Engels come un vero e proprio menscevico, con il suo assistente Bormental Ivan Arnoldovic, che vive in segreto nell'appartamento senza essere registrato. Segue la firma del direttore della sottosezione Eliminazione Animali Randaggi, P.P. Sharikov, autenticata. Il presidente del comitato Schwonder, il segretario Pestrukin. Mi permette di trattenere questo documento?» domandò Filip Filipovic coprendosi di chiazze. «O forse, e me ne scuso, le serve per dare corso legale alla faccenda?» «Mi scusi, professore», si risentì parecchio il paziente e dilatò le narici. «Effettivamente, lei ci considera in modo alquanto spregiativo. Io», e a quel punto cominciò a gonfiarsi come un tacchino, «davvero non intendevo offenderla. Siamo capaci di leggere i documenti, Filip Filipovic. Carissimo, non si arrabbi con me, mi ha talmente scosso i nervi». «Capisco», il paziente si calmò completamente. «Ma che razza di canaglia! Sarebbe interessante dargli un'occhiata. A Mosca si raccontano vere e proprie leggende su di lei, sa?» Filip Filipovic si limitò ad agitare disperato una mano. A quel punto il paziente si avvide che negli ultimi tempi il professore si era ingobbito e gli erano venuti i capelli bianchi. Il delitto maturò e cadde come una pietra, come spesso accade. Col cuore stretto da quel brutto presentimento, Poligraf Poligrafovic fece ritorno sul suo autocarro. La voce di Filip Filipovic lo invitò nell'ambulatorio. Lo stupito Sharikov vi entrò e con un indefinito timore guardò la bocca da fuoco sulla faccia di Bormental e poi Filip Filipovic. Una nube si aggirava attorno all'assistente e la sua mano sinistra, che stringeva una papirosa, sussultava appena, appoggiata al bracciolo lucente del lettino da ostetricia. Filip Filipovic, con una calma che non lasciava presagire nulla di buono, disse: «Raccolga subito le sue cose, i pantaloni, il cappotto, tutto quello che le occorre, e fuori dall'appartamento». «Com'è possibile?» si stupì Sharikov sinceramente. «Fuori dall'appartamento oggi stesso», ripeté con voce monotona Filip Filipovic, socchiudendo gli occhi e guardandosi le unghie. Una sorta di spirito maligno si era evidentemente insediato in Poligraf Poligrafovic. La rovina già lo guatava e il destino gli stava alle spalle. Fu lui stesso a gettarsi tra le braccia dell'ineluttabile e la trovò a scatti e con rabbia. «Ma di che si tratta, dunque? Cos'è? Pensate che non possa farvi intendere ragione? Io qui ho 12 metri quadri e qui rimango». se ne vada via dall'appartamento», sussurrò Filip Filippovich con voce soffocata. Fu Sharikov stesso a provocare la propria morte. Sollevò la mano sinistra e mostrò a Filip Filippovich il dito medio dall'osceno puzzo di gatto. Quindi con la mano destra, all'indirizzo del pericoloso Bormental, estrasse una rivoltella dalla tasca. La papirosa di Bormental scivolò giù come una stella cadente e dopo alcuni secondi Filip Filippovich, saltellando sui vetri rotti in preda al terrore, si scagliò dall'armadio al lettino. Sul lettino, disteso e rantolante, giaceva il direttore del sottoreparto Eliminazione Animali Randagi e sul suo petto si trovava il chirurgo Bormental e lo soffocava con un piccolo cuscino biancastro. Qualche minuto più tardi il dottor Bormental, con la faccia stravolta, si portò all'ingresso principale dell'appartamento e con una puntina appese un biglietto al campanello. «A causa di un malessere del professore, oggi non si effettuano visite. Si prega di non disturbare suonando». Con un luccicante temperino tagliò il filo del campanello. Nello specchio contemplò la propria faccia graffiata a sangue e le mani squarciate e pervase da un leggero tremito. Quindi si mostrò sulla porta della cucina e disse a Zina e Daria Petrovna, entrambe in preda all'ansia: «Il professore vi chiede di non allontanarvi dall'appartamento». «Va bene», risposero intimidite Zina e Daria Petrovna. «Consentitemi di chiudere la porta di servizio e di trattenere le chiavi», disse Bormental, nascondendosi nell'ombra dietro la porta e proteggendosi la faccia con il palmo della mano. «È una questione solo temporanea. Non è certo per mancanza di fiducia nei vostri confronti. Ma potrebbe arrivare qualcuno e voi potreste non resistere e aprire la porta. E noi non possiamo essere disturbati in alcun modo. Siamo occupati». «Va bene», risposero le donne e sull'istante impallidirono. Bormental chiuse la porta di servizio, si appropriò delle chiavi, chiuse la porta d'ingresso, chiuse la porta che dal corridoio dava in anticamera e i suoi passi si allontanarono in direzione dell'ambulatorio. Il silenzio avvolse l'appartamento, strisciò in tutti gli angoli, si insinuò il crepuscolo, brutto, ansioso, in breve calò l'oscurità. È vero, in seguito i vicini che abitavano dall'altra parte delle cortile dissero che quella sera da Probazhensky le finestre dell'ambulatorio che davano verso le loro erano illuminate a giorno e che avevano persino visto il professore in persona con il berretto bianco. Difficile verificare. È vero, anche Zina, quando ormai tutto era finito, blaterò che nello studio accanto al camino, dopo che Bormental e il professore erano usciti dall'ambulatorio, Ivan Arnoldovich l'aveva spaventata a morte. Era come accovacciato nello studio e bruciava con le sue stesse mani nel camino un quaderno con la copertina azzurra, di quelli su cui si descrivono i diari clinici dei pazienti del professore. Era come se la faccia del dottore fosse del tutto verde e tutta, lacerata da graffi. Anche Filip Filippovich quella sera non era lui. E ancora che, d'altronde, può darsi anche che una fanciulla innocente di un appartamento di via Prechistenska possa mentire. Di una cosa si può però essere sicuri. Quella sera nell'appartamento ci fu il silenzio più completo e terribile. Fine del racconto. Epilogo. Nel bel mezzo della notte, 10 giorni esatti dopo la rissa nell'ambulatorio, nell'appartamento del professor Probazhensky in vicolo Abukov, risuonò una brusca scampanellata. Le voci dall'altro lato della porta spaventarono a morte Zina. «Polizia criminale e giudice istruttore, favorisca aprire!» Ci fu uno scalpicciare, un battere. Presero a entrare e nella sala d'attesa splendente per le luci e con gli armadi a cui erano stati messi i vetri nuovi si materializzò una gran quantità di gente. 2 uomini in uniforme della polizia, uno con un cappotto nero e una borsa, il presidente Schwonder, pallido e maligno, il giovanotto donna, l'usciere Fyodor, Zina, Daria Petrovna e Bormental, semivestito che si copriva pudico la gola senza cravatta. La porta dello studio lasciò passare Filip Filippovich. uscì con indosso la sua solita vestaglia celeste e a quel punto tutti ebbero modo di convincersi immediatamente che Filippa Filippovic si era del tutto rimesso nel corso di quell'ultima settimana. L'energico e possente Filippa Filippovic, di un tempo pieno di dignità, si presentò dinanzi ai suoi ospiti notturni e si scusò di essere in vestaglia. «Non si preoccupi, professore», rispose l'uomo in divisa molto imbarazzato. Quindi esitò e disse: «È una cosa molto sgradevole. Abbiamo un mandato di perquisizione del vostro appartamento». E l'uomo guardò di sbieco i baffi di Filippa Filippovic e terminò la frase: «E di arresto a seconda del risultato». Filippa Filippovic socchiuse gli occhi e domandò: «E con quale accusa, se posso permettermi di chiederlo? E nei confronti di chi?» L'uomo si grattò una guancia e si mise a scorrere il foglio estratto dalla cartella. «Con l'accusa nei confronti di Probacensky, Bormental, Zinaida Bunina e Daria Ivanova per l'omicidio del direttore del sottoreparto eliminazione animali randagi, Poligrafovic Sharikov». I singhiozzi di Zina coprirono le sue ultime parole. Ne seguì un parapiglia. «Non ci capisco nulla», rispose Filippa Filippovic, raddrizzando regalmente le spalle. «Chi sarebbe questo Sharikov? Ah, chiedo scusa, si tratta del mio cane, quello che ho operato?» «Scusi, professore, non si tratta del cane, ma di quando già era un uomo. Ecco qual è il punto». «Cioè quando parlava?» domandò Filippa Filippovic. «Questo ancora non significa essere un uomo. D'altronde non è questo che importa. Sharik esiste anche adesso e nessuno si è mai sognato di ucciderlo». «Professore», proferì con grande stupore l'uomo nero e sollevò le sopracciglia. «Allora bisogna esibirlo. È il decimo giorno che è scomparso e i dati, deve scusarmi, ma sono del tutto sfavorevoli». «Dottor Bormental, favorisca esibire Sharik al giudice istruttore», ordinò Filippa Filippovic, impadronendosi del mandato. Il dottor Bormental accennò un sorrisetto storto, uscì. Quando ebbe fatto ritorno, fischiò e alle sue spalle dalla porta dello studio saltò fuori un cane di strano tipo. A Chiazza era privo di pelo, a Chiazza invece il pelo stava ricrescendo. Venne fuori come un esperto fenomeno da circo, sulle zampe posteriori. Poi si mise su tutte e quattro le zampe e si guardò attorno. Un silenzio di tomba calò nella sala d'aspetto, rapprendendosi come gelatina. Il cane, dall'aspetto spaventoso, con una cicatrice color porpora sulla fronte, tornò a sollevarsi sulle zampe posteriori e, sorridendo, sedette in poltrona. Il secondo poliziotto all'improvviso si fece il segno della croce e, indietreggiando in un colpo solo, pestò entrambi i piedi a Zina. L'uomo in nero, senza chiudere la bocca, articolò le seguenti parole: «Ma com'è possibile? Scusate tanto. Ha ben prestato servizio per l'eliminazione animali randagi». «Non sono stato io ad assumerlo», rispose Filippa Filippovic. «È stato il signor Schwonder a raccomandarlo, se non erro». «Non ci capisco nulla», disse il nero sbigottito e si rivolse al primo poliziotto. «È lui». «Lui», rispose il poliziotto con voce appena udibile. «È proprio lui». «Lui di sicuro», si udì la voce di Fiodor. «Solo che, canaglia, gli è ricresciuto il pelo». «Ma se parlava, E parla pure adesso, solo sempre meno, di modo che dovete sfruttare l'occasione perché tra breve starà zitto per sempre». «Ma perché mai?» si informò a bassa voce l'uomo in nero. Filippa Filippovic alzò le spalle. «La scienza ancora ignora il modo di trasformare le bestie in uomini. Ecco, io ci ho provato, ma non mi è andata bene. Ha parlato per un po' e poi ha cominciato a tornare alla sua condizione originaria, atavismo». «Non usare il turpiloquio», gridò all'improvviso il cane dalla poltrona e si alzò. L'uomo in nero inaspettatamente impallidì, lasciò cadere la cartella e cominciò a scivolare su un fianco. Un poliziotto lo afferrò da un lato e Fiodor da dietro. Si verificò una gran baraonda e vi si sentirono distintamente tre frasi. Filippa Filippovic: «Della Valeriana, è svenuto!» Il dottor Bormental: Schwander lo butterò giù personalmente dalle scale se si farà vedere ancora una volta nell'appartamento del professor Probaszynski. E Schwander: chiedo che queste parole vengano verbalizzate. I tubi grigi dei termosifoni ardevano. Le tende celavano la densa notte della Prešinska con la sua stella solitaria. L'essere supremo, l'eccellente benefattore canino, sedeva in poltrona e il cane Sharik, disteso, se ne stava accucciato sul tappeto accanto al divano di pelle. Per colpa della nebbia marzolina al mattino, il cane soffriva di dolori alla testa che lo tormentavano, stringendo come un cerchio la sutura sulla fronte. Ma grazie al calore, verso sera i dolori passavano. E adesso diminuivano, e i pensieri nella testa del cane fluivano ordinati e caldi. Mi è andata bene davvero, pensava nel dormiveglia. Mi è andata incredibilmente bene. Mi sono stabilito in questo appartamento. Sono definitivamente convinto che nelle mie origini ci sia qualcosa di poco chiaro. Non se ne esce senza il Terranova. Era una sgualdrina mia nonna, che il cielo l'abbia in gloria alla vecchietta. Mi sono stabilito. È vero, per un qualche motivo mi hanno fatto affetti nella testa, ma col tempo passerà. Non c'è ragione di guardare troppo per il sottile. In lontananza sorde tintinnavano le fiale. L'azzannato stava mettendo in ordine gli armadi dell'ambulatorio. Il mago canuto invece sedeva e canticchiava. Del nero sacro lido. Il cane vide cose terribili. L'uomo eccellente immergeva le mani coperte di guanti scivolosi in un recipiente, prendeva un cervello. Uomo ostinato, tenace, cercava sempre di cavarne fuori qualche cosa. Tagliava, esaminava, socchiudeva gli occhi e cantava. Del Nilo al sacro lido. Corrado Guzzanti ha letto Cuore di cane di Mikhail Afanasievich Bulgakov, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.